Marco. K, come cambia qualcosa? Vedi un po'. Sì, più passo di segnale. Adesso sei quasi 9.10, poc'anzi di 9.15. Addirittura invece a me l'apparecchio mi dà più watt sullo strumento. Là me ne dà di meno. Che strano, eppure il segnale si è abbassato. Ma bisogna vedere l'antenna, chiaramente non è tarata per il 25, magari era tarata per il 27, eccetera eccetera, ed è quella la differenza. Io pensavo che fosse proprio tarata per quella frequenza bassa, che fosse un po' fuori frequenza, e invece a quanto pare non è così, dai. Il fatto che mi dia più watt vuol dire che non escono dall'antenna magari. Sicuramente dipende da diverse cose, può dipendere, però io penso che sia perché l'antenna magari quando tu l'hai costruita con le misure che hai fatto probabilmente ha un'altra accordatura, non è proprio sulla banda 25. Sera. Ciao Gianfranco, buonasera. Ciao Gianfranco. Come vado? Bene, vai Gianfranco. Allora, fin qua regge abbastanza bene la nostra Giulio. È giusto un SVR 1-1, dai. Ok, sì, beh, sicuramente. Aspetta che controllo la codatura, vediamo un po' se me lo segnala qua. Scusate, 5 secondi. Tu sei abbassato invece, Franco. Ecco. Provo anch'io a guardare un po', prova. Quindi ho perso Gianfranco. No, adesso sei un po' risalito, forse hai accordato qualche cosina. Sì, voi siete sempre vecchi con dei segnaloni, siete quasi sul 9.30 quasi. Adesso io ho accordato, adesso è accordato per questa frequenza. Quindi magari posso, probabilmente che sia aumentato anche il segnale, visto che hai accordato l'antenna, anche in ricezione, potrebbe migliorare. Controlla un po', 1, 2, 3. 9.10, manca un, diciamo, 9.9, dai. La prima era più forte, sulla 27.075 era 9.15 pieno, era poc'anzi. Da te com'è, Gianfra? Allora, il tuo è sicuramente diminuito, Giulio. Forse non si è accordato. L'antenna, la Game Master, opera dai 25 fino ai 32 circa, in maniera ottimale, questo proprio sul grafico d'antenna. Ovviamente il centro banda è in 27. Tutto lì. Sì, no, io ho accordato, Gianfra, io ho accordato qua con l'accordatore entro contenuto, per cui più preciso di così non posso fare. E tu mi dici che sta arrivando più basso di segnale su questo canale qua. Beh, è normale perché è limiti, diciamo, di banda. Tieni presente che l'antenna non è assolutamente sorda. Quando tu poco fa dicevi che ricevevi 80 metri e compagnia cantante, non è detto che sia un pregio, perché le antenne funzionano come funziona il ricevitore. Se c'è quella banda, infatti sui ponti radio ad esempio, che è necessaria una banda molto stretta per permettere una ricezione ottimale dai disturbi, la banda viene proprio ridotta al massimo, tant'è vero che le monobanda di norma sono molto molto più efficienti delle antenne bibanda, tribanda e così via. Tutto lì, Giulio, quindi l'antenna va benissimo, penso che sia tra le migliori in commercio la Game Master, per varie caratteristiche, è stato un progetto azzeccato. Quella che dice invece che c'è Claudio, le J-Ball, che è un'antenna tra l'altro anche molto molto anziana come esistenza, è uno scala classico, c'è il difetto che per avere guadagno deve essere molto lunga, ma di lì si fa con qualsiasi antenna quel discorso, tutto lì. Sì, no, ma io mi riferivo, Gianfra, ai segnali che ricevevo quando avevo la Mantova Turbo, sempre in 40 metri, e anche in 80 è uguale, ricevevo segnali molto più forti di come lo dicevo adesso, cioè sentire sento lo stesso, non è che lo sento, però con la banda a turbo avevo dei segnali più forti di trasmissione, non troppo sempre perché io non potevo entrare, però in ascolto io ricevevo dei segnali anche 9.10, 9.15 e qualche volta anche 9.20, mentre invece con questa antenna quei segnali lì me li sogno proprio, in media sono 6-7 di segnali, 6-7, qualcuno quando spinge un pochino con la potenza può essere Santiago 9, ma con questa antenna non ho visto un segnale più forte di 9, parlando di 40 metri. Mi sono spiegato, Gianfranco? Sì, sì. Franco, tu lo stai usando? No, questo è un baracchino, praticamente, è un samurai. No, come antenna? È quella che ho costruito, una canna da pesca, praticamente simile alla Game Master. Però infatti pensavo che fosse più tarata per questa frequenza, visto che lo strumento mi dava più watt in uscita, però quanto pare in antenna forse non funziona così, quelli che escono sono diversi da quelli che mi segna lo strumento, dai. Allora innanzitutto ci sono apparecchi che quando vanno così sotto sono spinti e quindi già vanno fuori dalle tratture. E poi è possibile che l'antenna, essendo se il prototipo di una Game Master, non è detto che sia migliore, perché attenzione, la Game Master, l'originale, ha misure molto ma molto molto rigide, proprio perché è un'antenna a banda stretta, anche se in realtà riesce a scendere qui giù. Però è fatta così proprio per ricevere al massimo all'interno della sua banda, come devono essere tutte le antenne. E quello le dà un fattore di selettività molto, molto accentuato, e per quello non si sentono le altre frequenze, perché se si sentirebbero magari con certi ricevitori o certi apparecchi potresti avere facilmente delle regressioni d'immagine, come faceva la Mantova 1 e tante altre antenne di quelle, diciamo tra virgolette, a larga banda, ecco, il discorso è tutto lì. Sì, infatti, come dicevi tu, non è un bene che un'antenna riceva, diciamo, varie frequenze, che raduni varie frequenze, ma meglio sempre che sia selettiva, come ho capito bene, sì, Gianfranco. Sì, sì, deve essere selettiva l'antenna per avere prestazioni. Se tu metti un pezzo di filo, probabilmente in 40 metri ricevi meglio che con la Game Master, ecco. E anche forse meglio della Mantova 1. Basterebbe un filo da stendere e va bene, senza metterlo neanche in alto. Sì, basta che sia della misura giusta. Avanti, Giulio. Ok, beh, naturalmente capisco benissimo che questa non è che sia stata testata e tarata sui 25 MHz, sicuramente è stata tarata per la, essendo un'antenna costruita per la 27, avranno fatto a centrobanda, suppongo a 27 e 255 più o meno, che è quello, il link, come si chiama, il monitor, il canale monitor dell'Italia nazionale, dai. Perlomeno così hanno sempre detto, sicuramente è stata tarata su, e poi è chiaro che magari può avere una larghezza di banda che parte da 25 arriva anche a 30, 32, perché questa lo sappiamo benissimo che arriva anche ai 12 metri, 10-12 metri può andare bene, certo che sì. Sì, ma è così, Gianfranco. Mentre invece, ripeto, con la Mantova, io qualche volta ho fatto pilata, e parlando di qualche anno fa, in 45, e devo dire che sia dall'alta che dalla bassa Italia non mai meno di 9, accordato chiaramente. Sì, d'accordo Giulio, più anche d'accordo. Guarda, lo stesso effetto lo potresti ottenere staccando il PL e lasciando solo, diciamo così, il polo caldo attaccato. Aumenta il QRM di colpo e aumenta anche il segnale, però c'è più QRM che segnale, perché utilizza tutto il cavo anche come antenna. Però ci conviene spostarci, perché queste sono frequenze un po' così. Per me va bene, ritorniamo lì. Ok, ritorniamo 10, va.